El ataco se le arrepió a voluntad. Le ves esos tupidras, los tíocos, el cantante, mi amarrete con tanta facilidad. Centro campo, lancha, bene, difensor y socatene, el adversario no riesgo va a pasar. Equipo primera, de su noche riuscirá. Y tipo si tú te coro, y se me está no a cantar. E avanti, porta, porta, porta, porta, porta, la vittoria si sa. E avanti, forza, forza, forza, torre, ti lume coni, la vittoria si sa, sempre lo che sarà. Dove andiamo, noi vinciamo, i tifosi che ci seguono sempre più. Si incoraggiano da morire, l'avversario sanno assorbire, per il ritmo che facciamo ancora di più. Dirigenti soddisfatti, fatto mani come matti, allenatore con le segre sembra cantare. Nessuno ci batterà, vida con tutto piatto. E avanti, forza, forza, forza, torre, stilo, becco, la vittoria si sa, sempre la casa. E avanti, forza, forza, forza, torre.